Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. E oggi parliamo di calcio, ma come sapete noi quando parliamo di calcio cerchiamo di allargare i nostri orizzonti, intanto per il nostro innato immenso affetto verso il pubblico femminile, ma anche perché non ci piace entrare in disamine tecnico-tattiche, ci piace raccontare mondi particolari, e il protagonista di oggi è sicuramente un uomo attorno al quale c'è un mondo particolare, è un allenatore che ha allenato squadre che hanno fatto un sacco di gol, però che ne hanno anche presi parecchi. Un allenatore che ha portato una filosofia di gioco diversa, che si è basata sempre sul concetto che nel calcio vince chi subisce un gol in meno. Meglio battersi e vincere 4-3, magari rischiando di perdere 5-4, piuttosto che elemosinare un pareggio. Ma poi è anche un uomo che ha rilasciato dichiarazioni pesanti sul mondo del calcio, dichiarazioni che gli sono costate l'esilio, che gli sono costate una guerra epocale che i grandi burattinai del calcio gli hanno fatto, e infatti hanno peraltro dimostrato che aveva ragione lui. Insomma, stiamo parlando di Zdeněk Zeman. Buonasera. Siete in contatto? Sì, in contatto, purtroppo sì. Ci vuole parlare di quello che è successo ieri? Cosa? Parallelo fra spazio e tempo. Ah, ovvero? Linea retta che divide il se, il ma, il why e il bicam. Ma cioè? Tutto ciò in italiano cosa significa? 5-0. Ah, va bene. Questo stavo a dirlo. All'improvviso l'incoscienza. Ah. Ciglia dell'Opo prende la palla. Sì. Tira. Palo, doppio palo, rimbalza. No, ancora. A palla piglia la Gumblener, rompe il vetro dell'autoscuola Autopuglie, sì. Ritorna in campo, tribuna est, ovest, nord, sud, parallelo, doppio parallelo, e al 14° gol. Eh sì, questo è Antonio Albanese che nella trasmissione Mai dire gol aveva interpretato l'inviato foggiano Frengo Stop, uno dei personaggi che lo lanciarono. Questo inviato era innamorato del Foggia e soprattutto del suo allenatore simpatia Zeman, che era un soprannome anche derivante dal fatto che Zeman era una persona molto particolare, poche parole, voce bassa, sguardo enigmatico, non certo l'ospite ideale per un talk show di quelli in cui si urla e si esagera, però era uno che quando parlava diceva cose ben precise, amato da migliaia di tifosi e ha sempre lasciato dietro di sé un ricordo velato di leggenda. Tutto inizia il 12 maggio del 47, Praga, allora si chiamava Cecoslovacchia. Zeman ha uno zio che è stato calciatore, che ha allenato nella Juventus, si chiama Česmír Vykpálek. È lui che trasmette al piccolo Zdeněk la passione per il calcio, anche se non fa il calciatore. Nell'estate del 68 arriva la tragedia della Cecoslovacchia, perché i carri armati russi entrano per le strade di Praga. Così la famiglia Zeman decide di scappare in Italia e vanno in quella Sicilia dove erano soliti trascorrere le vacanze. Il primo impatto naturalmente non è facilissimo. Magari quando sei arrivato non capivo tanto, cioè non capivo tutto, però già parlare con le mani non ero abituato. E poi mi piaceva vedere il movimento e quello che succedeva attorno a me, e succedeva sempre qualche cosa. La mia maestra elementare diceva che dovevo fare cinema, io non mi rendevo conto perché me lo diceva. Invece sono d'accordo con quella maestra. Lo chiamavano il muto quei tempi. Lui si laurea all'ISEF, poi ha una cattedra da professore in ginnastica e in Sicilia vive le sue prime esperienze da allenatore, squadre dilettantistiche, il Cinisi, il Carini, poi arriva alle giovanili del Palermo, poi prende il patentino e va a allenare il Licata in C2. E qui nell'85 con il Licata ottiene una storica promozione in C1. A questo punto trascorre due stagioni tra Foggia e Parma, poi torna in Sicilia e allena il Messina, reduce dalla gestione di un altro mitico di cui abbiamo parlato, reduce da Franco Scoglio. Il Messina arriva ottavo in campionato e la classifica cannonieri viene vinta da un giocatore che l'anno dopo andrà alla Juventus, un certo Totò Schillaci. Ma Schillaci è solo il primo di una serie di campioni che Zeman trova nei vivai, nelle squadre di provincia, che grazie a lui e al suo modulo spregiudicato riescono a emergere dall'anonimato, a esprimere tutto il loro potenziale. Nesta, Signori, Di Biagio, Totti, questi giocatori devono tutti un po' del loro successo a lui, al boemo dagli occhi di ghiaccio. A Foggia intanto il presidente Casillo richiama Zeman sulla panchina rossonera e in quegli anni lui è uno dei pochi che giocano già a zona, molti lo paragonano a Sacchi, però il gioco di Zeman è molto più spregiudicato, è un 4-3-3 puro in cui attaccano tutti, attaccano anche i difensori e naturalmente bisogna correre molto. Il segreto del successo di quella squadra sta nella preparazione fisica a cui Zeman dedica tutta la sua attenzione. I suoi giocatori corrono per 90 minuti, la palla va da un piede all'altro perché corrono ma sanno anche giocare a pallone. Certo, la difesa magari ne risente, però lo spettacolo che le squadre allenate da Zeman hanno sempre dato è sempre stato molto apprezzato dai tifosi e per Zeman questa è una cosa molto importante. Al giocatore ci piace attaccare, non ci piace difendere. Io quindi in questo li lascio un po' più liberi, anche se è normale che la fase difensiva, se si riesce a fare tutti insieme con lo stesso impegno, si ottiene di più. Il Foggia è stato promosso in Serie B, siamo nel 1989. Zeman trova dei giovani sconosciuti e crea un gruppo compatto che partita dopo partita riesce a interpretare al meglio il suo modulo di gioco e questi giovani si chiamano Signori, Rambaudi, Baiano, Codisputi e anche il portiere Mancini, un portiere che comincia a giocare coi piedi e questa insomma è un'altra caratteristica nella quale Zeman anticipa gli allenatori che verranno dopo. Il Foggia ha un avvio incerto, poi nel girone di ritorno esprime un calcio spettacolare, termina il campionato all'ottavo posto. La stampa comincia a scrivere di questa piccola squadra di provincia che in tutto il campionato segna 45 gol ma ne subisce 38. Pensate che il Catanzaro arriva ultimo subendone 35. È una squadra che vince e diverte. I giornali cominciano a chiamarla il Foggia dei Miracoli. Nasce il termine Zemanlandia. Il Falco e il Gabbiano. E andiamo alla stagione 90-91, il Foggia dei Miracoli vince la Serie B, conquista la Serie A. Bisogna fare i conti con grandi squadre, squadre che investono molto, che giocano in strutture perfette, con le tecnologie più all'avanguardia. A Foggia ci si è sempre allenati nel campetto dell'oratorio che c'è dietro lo stadio, non ci sono attrezzature speciali. Per lavorare sulle gambe, per esempio, si fa su e giù dai gradoni dello stadio. È un metodo di allenamento magari antiquato, spartano, ma che dà dei frutti sul campo perché i ragazzi di Zeman corrono tutti e per 90 minuti. Freschezza e velocità diventano le caratteristiche più importanti di questo gruppo. È normale che io da allenatore devo cercare di fare duro, anche se non lo sono mai stato, secondo me, però bisogna che io facevo il mio ruolo e facevo allenare i giocatori e di nuovo non solo con lo scopo di migliorarli e di farli andare avanti. Eh sì, se non c'è qualità ci deve essere quantità, questo è il credo di Zeman. Chi non è un fuoriclasse deve lavorare, deve allenarsi per compensare le differenze tecniche e in questo modo tutto il gruppo ne trae vantaggio. Ci sono dei giocatori che probabilmente senza Zeman non avrebbero mai raggiunto determinati risultati in campo. Il valore di Zeman è stato proprio quello di lavorare su ogni singolo giocatore tirando fuori il meglio da ognuno. E poi c'è questa grande famiglia famiglia che è Foggia e il Foggia. Si viaggia in pullman anche per le trasferte più lunghe, si fanno interminabili partite a carte, i giocatori aiutano a scaricare le borse, si cambiano i tacchetti da soli, insomma ognuno fa la sua parte. C'è molto di inglese in questo tipo di filosofia. Questo atteggiamento non fa che cementare il gruppo, che sul campo diventa un avversario difficile anche per le grandi squadre. Che siamo professionisti, abbiamo compito di far divertire la gente che viene a vederci. Se non si divertono non vengono più, e quindi ci dobbiamo dare qualche cosa alla gente. Se si gioca bene ci si diverte anche. Per giocare bene bisogna lavorare tanto, e quindi lì non ci si diverte tanto. E il Foggia rimane in Serie A per 3 campionati, e sono gli anni in cui arrivano gli stranieri. Naturalmente bisogna andare a cercare giocatori non costosissimi, non si va alla ricerca delle star. Eppure Zeman scova per esempio Kolivanov, Shalimov, Petrescu, 3 giocatori che avranno una grande carriera anche grazie a lui. Il Foggia arriva 9° il primo anno e 12° il secondo. Il Foggia diverte, entusiasma anche quando non vince, anche quando magari prende 8 gol dal Milan, 6 dalla Fiorentina. Ma nel campionato 93-94 Zeman entusiasma i suoi tifosi, arriva 9°, perde solo all'ultima giornata la possibilità di ottenere una storica qualificazione in Coppa UEFA. A questo punto, come spesso accade agli allenatori di successo, arriva una telefonata. È Sergio Cragnotti che sta facendo una grande Lazio, che non bada a spese, anzi forse si avventura un po' anche in spese faraoniche che pagherà anni più tardi. Comunque chiama Zeman, Zeman accetta la sfida e si trasferisce nella capitale. E Zeman nel 94 ritrova nei biancoazzurri 2 dei suoi ragazzi, sono Signori e Rambaudi, ma ci sono anche dei campioni, c'è Di Matteo, c'è Boxix, c'è Gascogne, ci sono Marchegiani, Casiraghi, ma lui porta il suo metodo di lavoro, che consiste in allenamenti molto pesanti che permettono una freschezza fisica per tutti i 90 minuti, con un gioco rivolto all'attacco, un pressing continuo. E poi lui prende dei giovani dal vivaio e li trasforma in campioni. Due nomi: Di Vaio e Nesta. Con questo organico il campionato è esaltante. La Lazio chiude al secondo posto dietro alla Juventus, segna tantissimo, rimangono nel tabellino 5-0 col Napoli, un 7-1 con il suo Foggia, un 8-2 contro la Fiorentina. 2 minuti e mezzo per raccontare 10 reti, come dire 15 secondi a gol. Non resta che limitarsi alla cronaca spicciola di una partita che fin dal quarto minuto ha assunto una fisonomia chiara. Casiraghi raccoglie il suggerimento di Boxic e segna la prima delle 8 reti della Lazio. Il sole illumina solo la Lazio. All'82esimo Casiraghi realizza il suo 3° gol personale, il 6° per la sua squadra. Un raggio accompagna la sua corsa verso il record personale di gol segnati in una partita. Notate Zeman, neppure un gesto di esultanza. L'allenatore non si lascia andare neppure negli spogliatoi. Abbiamo preso 2 gol, una macchietta, però nell'insieme io penso che possiamo essere soddisfatti. Queste sono le sue famose interviste. Vince 8-2 e si lamenta dei 2 gol presi. E l'anno dopo la Lazio è ancora ai vertici, arriva terza, batte la Juve 4-0, 6-3 alla Sampdoria. Il calcio zemaniano diverte, e diverte sempre, anche se non riesce a raggiungere l'ambito traguardo dello scudetto. Però la Lazio è la squadra che segna più gol di tutti, 66 contro i 60 del Milan, che quell'anno vincerà il campionato. Nella stagione successiva però, e siamo nel 96-97, il modulo non porta i frutti sperati, tutti vanno all'attacco e insomma il popolo laziale si entusiasma quando vince, ma poi Zeman diventa un oggetto di critica quando si sbaglia qualche partita. Così la Lazio va a Tenerife in Coppa UEFA, ha vinto 1-0 in casa, perde 5-3 e viene eliminata. Poi ci sono altre partite non troppo convincenti, insomma anche per Zeman arriva l'esonero. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno degli allenatori più amati, ma anche uno dei più odiati, poi capirete perché, all'interno del calcio italiano, il boemo dagli occhi di ghiaccio, l'uomo che aveva sempre una sigaretta in bocca e aveva anche una voce, forse la voce più bella che un allenatore abbia mai avuto. Era il mago ed è il mago del 4-3-3, Zdenek Zeman. E il suo calcio d'attacco entusiasma Foggia, porta la squadra in Serie A, poi sfiora la vittoria dello scudetto con la Lazio. È un gioco spregiudicato, con gli attaccanti che segnano valanghe di gol, ma con la difesa che spesso soffre questa eccessiva propensione offensiva. Insomma, arriva l'esonero dalla Lazio dopo tre fantastiche stagioni. Ma a questo punto accade una cosa veramente imprevista, che raramente si è vista nel nostro campionato, perché l'allenatore della Lazio viene ingaggiato dall'unica squadra da cui non si sarebbe mai aspettato una richiesta, la nemica naturale della Lazio, o cioè la Roma di Franco Sensi. Sensi chiama Zeman come allenatore. Qui in genere in questi casi succedono due cose: che la vecchia tifoseria si arrabbia, ti dà del rinnegato, del venduto, e la nuova tifoseria non ti accetta perché dice questo arriva dalla Lazio. E qui si vede invece il grande rispetto e affetto di cui gode Zeman, perché in qualche modo i tifosi della Lazio si dispiacciono ma non lo insulteranno mai, e i tifosi della Roma lo adottano immediatamente con molto amore. E ancora una volta lui li ripaga, perché crea un gruppo nel quale inserisce dei giovani destinati a diventare dei campioni. In particolare ce n'è uno che lui lancia e diventerà il simbolo della Roma e di Roma. Sto parlando ovviamente di Francesco Totti. Il giocatore del Lecce chiaramente allontana la palla cercando di perdere del tempo, battuto, il calcio funziona, Totti tira, no! Go! Go! Go! Go! Go! E quest'urlo il telecronista della Roma lo ripeterà per molte volte e lo ripete ancora oggi, perché Totti dà vita a una carriera tra le più longeve del calcio italiano. E secondo me anche il fatto che Totti ancora oggi sia così asciutto e così atletico lo deve in parte, oltre alla sua grande professionalità, al fatto che quando Zeman tornerà a Roma in qualche modo lo trasformerà in un atleta ancora più completo. Quindi Zeman e Totti sono un binomio inscindibile. Ma torniamo al 98, lui è considerato uno dei migliori allenatori sulla piazza, il suo calcio lo porta a essere un esempio da imitare, i suoi ingaggi sono al di sopra della media, insomma ci sono una serie di colpi d'ala positivi che fanno crescere la sua carriera. Però come sappiamo basta un piccolo colpo d'ala negativo per far cadere un castello che spesso potrebbe essere fragile. In certi ambienti, e soprattutto negli ambienti di potere e danaro, tutto funziona secondo degli schemi precisi e ci sono degli equilibri e delle persone che è meglio non toccare. Però è anche vero che poi il mondo è fatto anche di persone, diciamo, con le palle, che non sanno chiudere gli occhi, non sanno voltarsi dall'altra parte, non sanno tacere. Siamo nell'estate del 98, la stampa sta parlando dei casi di doping al Tour de France, c'è coinvolto anche Pantani. Dal ritiro della Roma Zeman rilascia delle interviste in cui dichiara i suoi dubbi sul calcio italiano e porta le società calcistiche, secondo lui, il calcio italiano, a creare delle vere e proprie farmacie interne con cui vengono curati i giocatori. Insomma, lascia intuire che tra le sostanze in uso nelle farmacie delle squadre di calcio potrebbero anche esserci sostanze proibite. Le esplosioni muscolari di alcuni calciatori? È uno sbalordimento che comincia con Gianluca Vialli e arriva fino ad Alessandro Del Piero. Io che ho praticato diversi sport, pensavo che certi risultati si potessero ottenere soltanto con il culturismo, dopo anni e anni di lavoro specifico. Insomma, Zeman si scaglia senza mezzi termini contro la Juventus e soprattutto contro il suo direttore sportivo, che è Luciano Moggi. Scoppia lo scandalo, molti giocatori della Juventus e molti dirigenti vengono coinvolti, ovviamente primo tra tutti è coinvolto lo staff medico. Insomma, quello che poteva essere un colpo d'ala per Zeman, si rivelerà l'aspetto più devastante nella sua carriera di allenatore, perché è vero che bisogna essere degli uomini veri, ma è anche vero che non si possono scegliere i nemici sbagliati. Noi ovviamente oggi non parleremo del processo alla Juventus e al suo staff medico, e non parleremo neanche di Moggi, di Giraudo, del dottor Agricola. Non siamo titolati a farlo e non vogliamo ripercorrere strade già battute. Quello che vogliamo sottolineare è solo che alla fine del campionato 1999 Zeman lascia la guida della Roma, deve andare in Turchia al Fenerbahce. Poi torna a Napoli, ma viene esonerato e va in B con Salernitana, Avellino, Lecce, Brescia, torna a Foggia. Insomma, è un periodo di purgatorio in cui Zeman in qualche modo non è più in grado di svolgere la sua attività come allenatore, almeno non nel modo che ama lui. Sentite come Zeman risponde sulla 7 alle domande di Antonello Piroso al programma Niente di Personale del 2010. Lei in questo momento non sta allenando. Perché? Ma non lo so, penso che ci possano essere tanti motivi. Penso che oggi si pensa che sono scomodo, ma io mi sento sempre solo allenatore, quindi sul campo è difficile essere scomodo. Quanto ha pesato l'ostilità di Luciano Moggi? Io penso tanto, è stato decisivo secondo me, nel senso che io fino al 98 ero considerato tra i più bravi allenatori, e dopo il 98 che non riesco a allenare. Ecco, ma questa ostilità da cosa nasceva secondo lei? Ma penso che è nato dal problema di farmacie che è uscito nel 98, in estate nel 98, e quindi poi... Quindi aver sollevato il problema del doping o comunque dei prodotti farmaceutici... Parlavo prima di farmaci, poi si è dimostrato che non erano solo farmaci ma che era doping proprio e vero. Insomma, sono anni di processi e le conseguenze per Zeman sono state un brusco allontanamento da quello che lui ha sempre definito il sistema. Lui ha portato avanti la sua personale e ahimè solitaria crociata contro le società calcistiche che secondo lui avevano perso il contatto con il calcio vero, quello giocato col sudore, con l'odore dell'erba, col sacrificio, con la fatica. Come succede in questi casi, stanno anche loro contando i minuti, i secondi. Visto uno Zeman, Federica, ancora molto tranquillo. Zeman è tranquillo, però c'è davvero la sensazione che manchi qualche istante perché esploda anche lui. C'è davvero una fibrillazione palpabile sulla panchina del Pescara, che non sta più nella pelle, non vede l'ora di festeggiare con i ragazzi in campo quella che è davvero un'impresa storica. Fischia l'arbitro! Serie A! Serie A! Serie A per il Pescara! Il Pescara torna in Serie A! Beh, ci sono dei successi che valgono veramente tanto, e portare una squadra come il Pescara nel 2011-2012 senza neanche grandi investimenti a vincere il campionato, comunque a tornare in Serie A, è forse un successo che dal punto di vista professionale vale di più che non vincere uno scudetto con una squadra che ha speso 500 milioni di euro per rinforzarsi. Quel campionato è il campionato di Zeman. Pescara trova un grande allenatore e un gruppo di giovani che erano sconosciuti all'epoca. E vi faccio tre nomi: Insigne, Ciro Immobile e Verratti. Questi sono tre giocatori scoperti e lanciati da Zeman. Il Pescara segnerà 90 gol in quel campionato, chiude il campionato a 83 punti, guadagna la promozione in Serie A. Ancora una volta il vecchio leone ha dato la sua zampata vincente, ha portato in campo un calcio spettacolare, ha riempito le tribune degli stadi, tutta Pescara si è innamorata di quella grande impresa. Ma per parlare di Zeman, siccome io non ho mai avuto il piacere di conoscere Zeman personalmente, ho bisogno di interagire con qualcuno che Zeman lo conosceva molto bene, e noi abbiamo Luigi Di Biagio, detto Gigi. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno Luigi. Tu eri parte di quel Foggia dei miracoli, no? In che cosa, tu che hai vissuto, insomma, tante esperienze anche con la mia squadra peraltro, quale differenza c'era tra il modo di allenare e di approcciare il calcio di Zeman rispetto agli altri allenatori bravissimi che tu hai avuto? Fondamentalmente lui ha anticipato un po' i tempi, quello che lui faceva 30 anni fa si vede oggi in alcuni allenatori, anche se il calcio è un po' cambiato e alcuni principi sono cambiati. Lui ha anticipato un po' tutti quanti, cercando di dare coraggio ai giocatori, nel senso che prima, quando c'erano i due punti, un punto era un punto d'oro, si diceva fuori casa soprattutto, e lui cercava di far capire che bisognava giocare comunque sempre per vincere. Certo. Quindi ha dato un qualcosa in più dal punto di vista del coraggio, viene riconosciuto lui molto la fase offensiva zemaniana. Sì. Quel coraggio che forse tanti giocatori non avevano fino a quel momento. Senti, ma è corretto dire che allenatori come Zeman fanno la loro fortuna quando incontrano dei ragazzi che hanno fame? Cioè, mi spiego meglio, mi viene in mente anche Ranieri con l'Ester, cioè ci sono dei casi in cui giocatori che non sono ancora arrivati al successo forse sono, hanno più voglia di allenarsi in un certo modo, di avere una cattiveria agonistica che poi le grandi star del calcio non avrebbero più. Ci può stare come esempio, ci può stare come esempio, anche se poi lui si arrabbia quando gli dici questo, perché vuol dire che magari con i campioni non è riuscito a fare... Ma non per colpa sua, almeno secondo no, me. Ma quando succedono queste cose la colpa è un po' di tutti, no? Nel senso che comunque ognuno si deve prendere le responsabilità, però l'esempio calza, il suo modo di far lavorare i giocatori, il suo modo di interpretare il calcio, il connubio con i giovani, è evidente che sia il massimo. Una domanda tecnica, ma perché Zeman, le squadre di Zeman facevano così tanti gol e ne prendevano anche parecchi? Perché è inevitabile che quando offendi con tanti giocatori lasci più spazio agli avversari. Certo. Il momento che si trovava l'equilibrio giusto venivi considerato una squadra imbattibile, e l'equilibrio giusto trovarlo magari in 60 partite è un po' difficile, e quindi succedeva spesso che si subivano tanti gol ma poi se ne facevano insomma abbastanza. Senti, ma tu che eri, come dire, un centrocampista, oggi saresti uno del 4-2-3-1, uno dei due che stanno lì a fare da cerniera. In qualche modo, quanto Zeman ha influenzato il tuo modo di giocare? Lo ha cambiato, perché fino a quel momento magari non si vedevano alcune cose, sì, o quantomeno io non le vedevo, ma da quello che mi risulta tanti giocatori, perché dire un calcio più speculativo, un calcio più furbo se vogliamo, invece questo era un calcio dove si cercava comunque sempre di cercare la vittoria, si certo, cercava sempre di verticalizzare, si cercava sempre di cercare una giocata importante tra le linee, oggi si chiama la giocata tra le linee, ma prima era comunque la verticalizzazione immediata per le punte. Certo. Quindi la prima cosa che lui cercava di inculcarti era guarda avanti, perché indietro abbiamo sempre tempo di passare la palla ai difensori, c'è sempre tempo, sì, di cercare gli attaccanti, bisogna farlo il prima possibile, quindi il suo credo era questo fondamentalmente. Senti Luigi, la mia ultima domanda te la faccio da interista, ma è stato lui, siccome noi abbiamo un po' nostalgia, noi tifosi interisti, dei tuoi gol sul primo palo sul calcio d'angolo, è stato lui a dirti di andare sul primo palo a prendere la palla? Diciamo che quella è una cosa che ho avuto io grazie al fatto che giocavo da bambino a basket, quindi è un po' il famoso terzo tempo, sì, nel cercare di anticipare tutti quanti, però lui insomma mandandomi sempre comunque a saltare di testa come giocatore più importante, un po' e un po' insomma diciamo, okay, se sai qualche parola di olandese vai a Piano Gentile e spiega che uno sul primo palo ce lo vedremo volentieri anche adesso. Grazie Luigi. Va bene. Ciao, ciao, grazie. Voi, ciao, ciao. A tutto. Nel 2012 Zeman torna sulla panchina della Roma, non sarà un'esperienza felicissima, ma come dicevo prima, secondo me sarà un'esperienza fondamentale per il fisico di Francesco Totti, che da quel momento dimagrisce, torna asciutto, torna scattante, e oggi a 40 anni insomma dimostra, oltre ovviamente la sua classe e la sua professionalità, ma dimostra anche di essere stato seguito bene negli anni chiave. Poi Zeman va a Cagliari, poi va a Lugano, ma siamo sicuri che anche se in questo momento non ha nessun incarico, prima o poi lo ritroveremo sornione, poche parole, la sigaretta in bocca, a istruire qualche squadra, magari di giovani affamati di vittorie, con il suo spregiudicato 4-3-3. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se anche voi conoscete una storia che magari merita di essere raccontata. Poi vi ricordo il nostro podcast e vi ricordo che mi trovate su Facebook, su Twitter, sui miei social, su quelli del Falco il Gabbiano, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.